Dora e il bosco dietro casa. Dora era una modesta bambola di pezza fatta in casa, con due bottoncini di vetro al posto degli occhi, la bocca ricamata e i capelli di lana nera. Apparteneva a una bambina che si chiamava Marilena. Dora sapeva piangere, ridere e cantare come una bambola raffinata. Dovete sapere che le bambole e gli orsacchiotti vanno pazzi per le passeggiate nel bosco. Tutti gli altri bambolotti erano andati qualche volta a cogliere fiori con Marilena. La povera Dora era l'unica a non avere mai visto il bosco. Ma lei faceva finta di non dispiacersene. «Bah, i boschi, che posti selvaggi!» diceva. «Io preferisco di gran lunga i giardini. Eppure quando le campanule sono in fiore, il bosco sembra un lago blu, scintillante», le diceva Bobo, il gatto di peluche. «E quando gli uccellini cinguettano, sembra di sognare», grugniva dolcemente l'orsacchiotto. Dora allora appoggiava il viso contro il vetro, perché nessuno vedesse i suoi occhi di vetro riempirsi di lacrime. «Ah, potessi vedere il bosco almeno una volta», sospirava. Un giorno Marilena disse: «Bambole, orsacchiotti, oggi andiamo col babbo a fare un picnic nel bosco». Prese fra le braccia tutti i suoi giocattoli, ma non si accorse che Dora era caduta per terra. La bambola rimase lì sdraiata per terra. Li sentì montare tutti in macchina. Udì il rumore della portiera che si chiudeva e vide l'auto che spariva in lontananza. All'improvviso qualcuno spalancò la porta. Era il cane Scintilla, che la annusò e la carezzò con una zampa. Poi la prese delicatamente fra i denti e trotterellò giù per le scale, uscì in giardino e si mise a correre in direzione del bosco. Scintilla depose con cura Dora vicino a un albero e poi si mise ad annusare l'aria perché aveva sentito odore di conigli. Partì come un razzo, abbaiando gioiosamente, saltando di qua e di là. Dora si guardò intorno. «Questo deve essere il bosco», pensò. Le campanule ondeggiavano dolcemente alla brezza, come piccole onde sul mare lucente. Le farfalle svolazzavano a coppie e sembravano fiori anche loro. I rami formavano come un tendaggio verde pallido ed ora udiva il cinguettio di un petirosso e il gorgheggio di un usignolo. «Oh, li ho sentiti anch'io, gli uccellini che cantano nei boschi!» esclamò Dora. Intanto Scintilla era tornato a casa dimenticandosi della bambola di pezza. Ma Dora era felice. La pioggia gocciolava sulla sua testina di lana. La luce fece capolino e risplendeva sui suoi occhi di vetro. Poi venne l'alba e Dora continuava a ripetersi: «Sono nel bosco, che bello! Nessuno di loro è stato nel bosco di notte, ma io sì, io sì!» Dopo due giorni e due notti, Marilena tornò nel bosco a cogliere fiori e portò con sé Scintilla. Improvvisamente il cane si ricordò di Dora. «Scintilla, vieni qui subito, ma cosa hai trovato?» «Oh, ma è Dora, poverina, come sei conciata, ti asciugherò e poi ti cucirò un vestitino nuovo», esclamò Marilena impietosita. Portò la bambola a casa e la fece sedere nel posto più comodo vicino al caminetto, mentre Dora con voce sognante ripeteva pianino: i boschi di notte». Gli orsacchiotti stavano zitti, le bambole si guardavano. Allora Dora raccontò loro la sua avventura. «Sei stata proprio coraggiosa, Dora, a non aver paura nel bosco di notte sola sola», esclamava il gatto Bobo con ammirazione. Ma Dora continuava a mormorare: «La luna e le civette, che incanto! Sì, sì, un bosco di notte è il posto più bello del mondo!»